Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Il mercato della stampa 3D oggi ammonta a circa 5 miliardi di euro come valore, ma si prevede che nel 2030 questa cifra salirà a 200 miliardi di euro, che è un incremento assolutamente notevole, anche se, nonostante questo, anche allora solo il 2% della manifattura si prevede si affiderà a queste tecnologie di stampa 3D. Siamo insomma in un momento in cui stanno emergendo le possibili applicazioni industriali di queste cosiddette tecnologie additive. Quindi, dopo che abbiamo visto, appunto, abbiamo cercato di capire quali sono queste tecnologie additive, oggi con Davide Scher, che è tornato a trovarci. Buonasera Davide. Buonasera. Giornalista, esperto di stampa 3D, fondatore di Replicatore.it. Ecco, cerchiamo di capire in quali settori si sta già passando all'utilizzo della stampa 3D per fare produzioni di massa. Noi sappiamo che la stampa 3D da almeno 20 anni viene utilizzata per fare prototipi, perché certo, le sue caratteristiche intrinseche, la possibilità di trasformare un progetto in un oggetto e di non avere problemi, diciamo, a produrre oggetti tutti diversi l'uno dall'altro. Certo. Per questo è interessantissimo per la prototipazione. In campo industriale, dove stiamo vedendo l'utilizzo di questa tecnica? Certo, no, premesso che in effetti, come hai detto giustamente tu, è sempre solo una piccolissima parte di tutto quello che viene prodotto, che viene fatto in maniera additiva. Degli esempi che io posso già fare e che si fanno regolarmente sono dove c'è di mezzo proprio una personalizzazione estrema, come può essere per esempio nel plantare fatto su misura per la persona, ma addirittura plantare per le scarpe. Per le scarpe, esatto. Sì. Dove addirittura la persona, uno scanner, un macchinario apposta può rilevare non solo la forma ma anche come viene applicata la pressione durante la camminata. La distribuzione della pressione del piede, certo. Esatto, e poi la stampante realizza il plantare esattamente su misura per la persona, e questi plantari vengono prodotti, possono anche essere prodotti con quantità anche più ampie e hanno raggiunto un prezzo che comunque è comparabile con quello di una normale protesi ortopedica, quindi okay, accessibili a tanti. Un altro settore dove vediamo un utilizzo un po' esteso è nei sistemi auricolari, magari per chi soffre di problemi di udito. Questo veramente, la geometria molto particolare, le dimensioni molto piccole, molto precise, fanno sì che una stampante di certe dimensioni può produrne anche diverse centinaia per volta, quindi anche questo è un prodotto tutti diversi per loro, tutti fatti su misura. Una cosa magari più a portata di tutti sono gli occhiali da sole, cioè noi vediamo tantissimi designer che si inventano dei tipi dei design e poi li fanno produrre, quindi magari con produzioni di poche centinaia. Quindi anche i creativi hanno maggiore libertà. E poi, per esempio, espressiva. Sempre in campo di protesi ci sono le protesi dentali, dove si utilizzano queste tecnologie. Diciamo che sono tutte cose che hanno a che fare proprio con la forma del corpo umano per il momento, si direbbe. Assolutamente, sì. Infatti quello di cui si parla tanto è proprio il concetto di personalizzazione di massa. La prima cosa che ti viene da personalizzare è quello che ti mette addosso. È la persona, no? Esatto. Ecco, ci sono invece anche delle sperimentazioni, no? Si stanno facendo dei tentativi apparentemente anche quasi un po' folli. Certo. Una cosa che attira tanto sono comunque gli abiti, e ci sono diversi stilisti che sperimentano, soprattutto dei designer che sperimentano. Un esempio che viene in mente è proprio questo abito disegnato da questi Nervous Systems, sono dei designer americani, creato con tecnologie generative. Praticamente esce dalla macchina, dal sintetizzatore, come una palla e si più apre o meno diventa una palla grossa come un'arancia. Esatto, una palla grossa, anche un pochino un po' più di un'arancia. E praticamente la macchina è talmente precisa che è in grado proprio di disegnare anche gli spazi tra i pezzi, quindi esce dalla macchina, viene tirato fuori dalla polvere, si apre, viene fuori il vestito un po' come completo. Le ali di una farfalla quando si dispiegano per la prima volta, no? Esattamente, poi sono accartocciate. Esattamente, quindi ha proprio delle forme anche che chiamiamo biomimetiche, no? Cioè ispirate proprio alla natura. Mi domando contemporaneamente se ci sono dei settori nei quali forse non vedremo mai la stampa 3D. Viene in mente il settore automobilistico, non so, se parliamo di cofani di un'auto, produrre milioni di cofani tutti uguali, forse ecco lì l'utilizzo della stampa 3D non è destinato ad avere tanto successo. Tu cosa ne pensi? Certo, no, infatti assolutamente l'idea per adesso è usato solo come prototipazione in campo automobilistico, però si ragiona sull'idea di usarlo per produzione, chiaramente non tanto per un cofano, perché un cofano stampato in 3D costerebbe tantissimo. quello che dicono proprio chi lavora con la stampa 3D è che il limite è un cliché, ma il limite è l'immaginazione, cioè noi dobbiamo sforzarci di immaginare un cofano diverso, cioè magari un cofano con una geometria molto particolare, più leggero, che ha delle funzionalità diverse proprio magari grazie al design. Magari un cofano che ha anche delle funzionalità strutturali, esatto. No? Per esempio, mentre oggi sostanzialmente è solamente una copertura esatto, e affidiamo la componente strutturale ad altre parti della macchina, lì si potrebbero per esempio mescolare queste funzioni. Assolutamente, magari eliminare il cofano del tutto, come ha fatto questa azienda EDAG, che praticamente si è immaginata una struttura di una macchina fatta su misura per il guidatore, quindi come quello che dicevamo prima, la personalizzazione, ma con delle geometrie molto complesse ispirate alla forma di una tartaruga, quindi una specie di guscio che sta intorno al guidatore, tutto disegnato con delle geometrie alveolari che gli danno delle performance superiori. Molto leggero perché in gran parte, esatto, vuoto, eccetera, eccetera. Grazie Davide Scher. Grazie a voi.